la Giunta per le autorizzazioni ha, sotto la conduzione ineccepibile del Presidente Castagnetti, ha giustamente voluto che la Giunta esprimesse un voto. Io ho detto che ero d'accordo per fare una proposta e la Giunta propone oggi la concessione dell'autorizzazione. Non capisco perché ci si debba trincerare dietro il voto segreto. Noi abbiamo fatto quella proposta per consentire a tutti di pronunciare, di guardare, di dire ai cittadini perché ogni parlamentare si comporta in un certo modo. Onorevole, però questo non capisce il voto segreto. Lo capiscono un po' tutti il voto segreto. Mi consenta di dire che non capisco, è un modo per dire che certo. lo comprendiamo molto bene. Insomma, noi non proprio, se dovessimo seguire quello che dice il collega Costa, al quale contraccambio l'attestazione di stima, dovremmo dire che proprio valutando ragionevolmente tutto quello che c'è, e la mia relazione sarà nel senso di offrire oggi alla Camera queste valutazioni, queste considerazioni, dovrebbe indurre ciascun deputato a dire a testa alta di fronte all'opinione pubblica: io voto così. Io voto così.